Capitolo 3. Un lenzuolo sporco di sangue. L'astenia sul foglio di papiro che ti ho messo qui dentro, ho scritto una poesia che ricordavo a memoria. Mi sarebbe piaciuto crearla io, invece sono capace solo a copiare. E mentre mi sentivo avvampare in volto, declamai con un filo di voce i versi. Vieni ancora da me, scioglimi quell'intrico d'angoscia, e quanto il cuore è vago di compiere, compilo tu, combatti con me. Allora non serberai un cattivo ricordo di me. Sembrava rincuorata. Accetterò tutti i lavori che mi proporranno qui a Fliunte e magari suonerò anche al tuo matrimonio. Eravamo giunte al porto. Nell'agorà ci stavano aspettando quelli del coro, la flautista amica di Lastenia e due arcieri. Anch'io spero di rivederti, Lastenia. Il mio viso doveva essere in fiamme. Ti sono grata. Mi hai riavvicinata alla vita quando mi sentivo morire. E mi rifugiai fra le sue braccia, sussurrandole all'orecchio. Grazie, mi ha insegnato a conoscermi. Quando mi divincolai da lei, mi sentivo commossa ma libera. Sul suo volto lessi gli stessi miei sentimenti. Mi trascinò felice in mezzo al gruppo. Me li fece conoscere uno a uno. Dette istruzioni ai due arcieri di non perdere mai di vista le casse di Piramo e a me urlò di stare tranquilla. Con quei due nessuno avrebbe mai osato avvicinarsi. Portavano pantaloni rossi che scendevano fino alle ginocchia, berretti neri a punta che gli ricadevano sulla nuca, un arco, una gorite con le frecce, una daga e un'ascia. Soprattutto uno aveva un aspetto inquietante, capelli rossi e pelle cosparsa di effelidi. Fissava tutti con occhi socchiusi, con rapidi scatti del capo, il labbro inferiore gli mancava lasciando scoperto il lembo dell'arcata dentaria. La cicatrice proseguiva lungo la guancia sino all'occhio. Lastenia aveva ragione. Le due casse di codice e papiri erano in mani sicure. La sera stessa, zia Demodice e mio padre parlarono di me. Mi trovavo nella stanza di sopra, intenta al lavoro di copiatura, ma sentivo chiaramente i loro discorsi. «Quante dracme dovrei cacciare per la dote?» «Prova con 9.000, Piramo, sfrutta a tuo vantaggio l'interesse di Paionio per Assiotea!» Avevo smesso di scrivere, afferrai il calamo con entrambe le mani, stavo per spezzarlo, cominciai a tremare. Demodice, non sono abituato a fare brutte figure, sono a digiuno di queste cose, ne avrei fatto volentieri a meno, ma purtroppo gli dei mi hanno mandato una femmina e adesso devo fare di tutto per sistemarla. Due colpi di tosse secca. Nel caso non si accontentasse, Demodice, ad Atene per uno della mia posizione una dote di 3 talenti per Zeus, 18.000 dracme, proprio in questo periodo in cui sono pieno di debiti. Ci potresti aggiungere quel pezzetto di terra in contrada a Caccialepre, confinante con la sua proprietà di Collelupo. Ma vale poco, c'è giusto quel bel noce, il resto son pietre. Piramo, fatti consigliare da me, andrà bene, vedrai. Assiotea è una ragazza a modo, senza grilli per la testa. Nonostante tutto, Antinoe l'ha tirata su abbastanza bene. Io le ho insegnato a cucinare, a tessere, a cucire. L'ho portata spesso con me all'orto e la ragazza ha un tal amore per la terra che sembra una contadina nata. Sbuffò soddisfatta. E poi conosci bene anche il mestiere di leggere e scrivere, e questo lo devi aggiungere alla dote. Tremavo come una foglia. Stavano decidendo la mia vita. Se ci fosse stata mamma, almeno avrei potuto parlare con lei, confidarmi, mettere a nudo quel macigno che sentivo sul cuore. 3 giorni dopo, Paionio venne invitato a cena da mio padre. Si sentì bussare alla porta e gridare il nome di Piramo. Poco dopo, l'ospite fu ricevuto nell'androne e cominciarono subito a cenare. Li sentivo conversare e distinguevo perfettamente la loro voce. Dopo qualche clessidra in cui ricordarono gli avvenimenti degli ultimi giochi di Argo, Paionio domandò: «Vogliamo parlare di affari ora?» Sentì mio padre schiarirsi la gola senza dire nulla. «Piramo, quanto mi dai se mi sposo tua figlia?» 9.000 dracme, di più non posso, Paionio, proprio non posso. Attimi di silenzio. Un talento e mezzo, Piramo, metà di una dote minima. Vuoi approfittarti di me per il solo fatto che ho 27 anni e che sono spartano? Intanto alla prossima assemblea approveranno la mia cittadinanza per i meriti sportivi ottenuti con lo stendardo di Fliunte e così finirà anche questa mia condizione di straniero residente. E poi, Piramo, le nostre guerre sono finite. Ora dobbiamo pensare al grande pericolo macedone e unire le nostre forze. E anche il nostro sangue. E ci occorrono figli. Tanti figli maschi per creare un nuovo grande esercito. I soldi che mi darai non serviranno a me, ma a tirare su tanti coraggiosi opliti. I tempi sono cambiati, amico mio. Devi aggiungerci almeno altre 6.000 dracme se vuoi liberarti di Assiotea. Per tutti gli dèi, due talenti e mezzo, è una follia! I colpi di tosse continuarono accavallandosi. Sentivo solo un impulso: scendere, affrontarli, urlargli in faccia di non stare a scannarsi per me. Sarei finita schiava in qualunque parte del mondo. Ascolta, Paionio, la ragazza ti frutterà bene. È pratica di tutte le faccende di casa e di campagna. Sa tessere, filare, è sana come un leone. Inoltre sa leggere e scrivere. Continuerò io se lo vorrai a procurarle il lavoro da copista e i soldi li prendi tu. Ci potrai ricavare 2 o 3 dracme al giorno e, volendo, pure qualcosa di più, sicuro. Di più ti dico. Si sentiva il suo continuo tentativo di espellere aria dal naso. Non se ne parla. Ad Atene è una dote di almeno 3 talenti e lo sai bene. Io invece dovrei accontentarmi di 2. Ascolta, se potessi garantirmi che tua figlia mi darà 7 o 8 bei maschi, beh, allora mi accontenterei di quello che mi hai offerto, ma questo non puoi assicurarmelo, lo sai bene. Voce sgarbata. E poi, tu sei uomo di cultura, Piramo. Il personaggio di una commedia dice che insegnare ad una donna le lettere è un grave errore. È come dare veleno ad un pericolosissimo serpente velenoso. Il fatto che tua figlia sappia leggere e scrivere, per me, potrebbe non essere una buona cosa, lo sai bene. A quel punto mio padre aggiunse il pezzetto di terra con l'albero di noce. La trattativa andò avanti per molto tempo. Alla fine, io, Assiotea di Filionte, 17 anni, venni valutata e venduta per 2 talenti più un pezzo di terra pietrosa, più tutte le spese per il matrimonio. Le nozze avrebbero avuto luogo col rito spartano durante il mese di Gamellione, nel periodo della luna piena in inverno, il mese dei matrimoni dedicato a Era. Mio padre gli chiese se voleva vedermi. Ero sconvolta, furibonda, disperata. Paionio gli rispose di no, che già mi aveva osservata all'agorà assieme a mia zia e che gli era bastato. A quel punto Piramo chiamò zia Demodice a voce alta e disse di presenziare assieme ai vicini di casa, già pronti per l'occasione come testimone. Poco dopo sentì la voce carezzevole di mio padre. E allora, Paionio, dammi la mano. Ti do mia figlia Assiotea affinché metta al mondo dei figli legittimi. Io l'accolgo, Piramo. Mentre il pianto mi si bloccava in gola, sentì la voce aspra di mio padre. Aggiungo una dote di 12.000 dracme più la terra in contrada Caccialepre. La colgo con piacere. La voce di Paionio era leggera. Dall'andron si diffuse un lugubre cozzare di ciotole per i brindisi. Buedromione, Pianepsione, Maimacterione e Poseidone furono mesi in cui vissi come risucchiata in un vuoto lancinante. Mio padre, contrariamente agli anni precedenti, viaggiò molto. Sarebbe rientrato nel mese di Gamelione per il mio matrimonio. Con me c'erano zia Demodice e Demone, uno schiavo cacciato dalla famiglia presso cui lavorava perché troppo vecchio. Piramo gli aveva concesso di stare con noi solo fino al matrimonio. Mentre copiavo, leggevo, imparavo, imprimevo nella mia mente ogni parola. Per tenere in vita la mia rabbia, presi a scrivere dei commenti accanto alle frasi che più mi colpivano. In quel periodo stavo trascrivendo i 700 fogli della Repubblica di Platone. Mio padre mi aveva ordinato di farne 3 copie. Conosci qualche campo dell'attività umana in cui il sesso maschile non superi sotto tutti questi punti di vista quello femminile? Le attitudini naturali sono similmente disseminate nei due sessi e natura vuole che tutte le occupazioni siano accessibili alla donna e tutte all'uomo, ma che in tutte la donna sia più debole dell'uomo. Menzogna, menzogna. Un filosofo come Platone non può non sapere come stanno le cose. Lui ha viaggiato, è circondato dagli uomini che detengono la cultura dell'Attica, dell'Ellade, dell'Oriente e dell'Occidente. In lui si incarnano l'esperienza, la saggezza, il sapere. Come può scrivere queste cose allora? Lui sa perfettamente che alla donna non è permesso accedere a nessuna attività all'infuori della riproduzione del meretricio. Come può sapere che io, Assiotea di Fliunte, figlia della defunta Antino e di Piramo, io che ora sto copiando la sua repubblica, io ragazza di 17 anni e copista da oltre 9, io che sono stata educata da mia madre a copiare, a non scrivere mai un mio commento accanto a ciò che trascrivevo, ma educata a pensare. Come può il sommo Platone essere certo che il mio pensiero sia più debole del suo? Solo perché sono donna? Rilessi il commento, presi un foglio di papiro. Per un momento pensai di ricopiare il testo mettendo la mia nota. Temetti che quelle annotazioni avrebbero potuto compromettere il mio lavoro. Mamma mi aveva detto che alcuni copisti inserivano dei commenti relativi allo stile, mai al contenuto. Ma non era giusto. Una menzogna doveva essere svelata. Abbandonai il foglio vergine e continuai a copiare. Forse aveva ragione mia madre, quando mi consigliava di scavare un fossato di indifferenza fra il testo che dovevo trascrivere e il mio pensiero. Nel mese di Gameglione, la luna piena cominciava a partire dal decimo giorno. Mio padre era tornato all'inizio del mese. Lo incontrai poche volte, indaffarato com'era nelle operazioni di vendita delle proprietà, disperato per i debiti. Era interessato solo allo stato d'avanzamento dei lavori di copiatura. Mi aveva portato altre tre casse di libri e di fogli di papiro vergini dopo aver chiesto il permesso a Paionio. Con quegli occhi acquosi e sfuggenti, mentre sfogliava soddisfatto gli ultimi lavori, non si accorse dei miei rari commenti sui fogli della Repubblica. Mi comunicò che subito dopo le nozze sarebbe partito per la Trinacria, dove pensava di stabilirsi per molto tempo, forse per sempre. Il quarto di Gameglione faceva un freddo pungente, ma era il giorno più propizio. Esiodo lo aveva lasciato scritto. Il cielo era grigio come il mio animo. Emone e zia Demodice avevano decorato l'interno e l'esterno della casa con ghirlande di foglie d'olivo e d'alloro. La mattina di buon'ora, zia Demodice, con amiche e parenti, torce accese in mano, si erano recate vicino alla Gorà, alla fonte della ninfa fluviale Calliroe, figlia del fiume dio Asopo. Vidi la processione tornare. Il suonatore dell'aulos precedeva una donna dal lungo peplo bianco che portava un grosso vaso di forma ovoidale. Poco dopo salì nella mia stanza una sacerdotessa della dea Era, assieme a tutte le altre donne del corteo, fra cui la ninfa Eutria, un'amica di mia zia che per tutta la giornata mi avrebbe assistita e guidata. Vollero che tirassi fuori dalla cassapanca tutte le mie bambole. Erano cinque, le amiche con cui ero cresciuta. La sacerdotessa le cosparse con gocce d'acqua sacra e poi recitò una preghiera consacrandole alla dea Artemide. Finita questa cerimonia, scendemmo nella piccola stanza accanto all'andron. Dopo che mia zia e un'altra donna mi ebbero lavata con oli profumati e acqua calda, la sacerdotessa di Era mi fece scivolare dalla testa su tutto il corpo l'acqua fredda raccolta alla fonte di Calliroe come rito di purificazione. Mi fecero poi indossare un peplo di lana completamente bianco, legato alla vita da una fascia color argento. Le mie amiche, erano in tre, mi avevano preparato una corona d'alloro intrecciata con fili argentati e me la misero sui capelli raccolti sulla nuca. Infine, la ninfeutria mi fece indossare un velo trasparente sul capo e sul volto. Ultimate le cerimonie della purificazione, si diede inizio al banchetto, preceduto dal sacrificio in onore di tutte le divinità protettrici del matrimonio, Zeus, Artemide, Era, Apollo e Feito. Nulla potevo fare per arrestare gli eventi. Ero triste, distante dalla ghirlanda che portavo sulla testa, dalle mie amiche che avevano lavorato tanti giorni per prepararla. Mio padre prese la lepre catturata in montagna da Emone nel nostro appezzamento di caccialepre e gli conficcò un coltello nella gola. Il povero animale si dibatté, non voleva morire, ma fu costretto a versare il suo sangue affinché la dea Era benedicesse il mio matrimonio. Paionio era giunto da poco assieme al suo Paracos, che lo avrebbe assistito durante la cerimonia. Prese posto accanto a mio padre, accettò la ciotola col sangue che gli porgeva e ne beve un sorso. Anch'io fui costretta a poggiare le labbra sulla stessa ciotola in cui vibrava ancora la vita di quella povera creatura. Per tradizione, metà andron era riservato ai maschi, metà alle femmine. Dopo la cerimonia del sangue, vennero offerti i dolci di sesamo che avrebbe garantito a me e a Paionio la fecondità. Paionio si interessava solo ai suoi amici. Uno di essi ci offrì del pane con un cesto e mentre ognuno dei conviviali ne prendeva un pezzo e lo mangiava, il giovane pronunciava questa frase: «Ho fuggito il male, ho trovato il meglio». Ci cosparsero di noci e fichi secchi, ci riempirono il capo, ce li lanciarono addosso con gesti infantili gioiosi. Il vino intanto cominciava a scorrere a fiumi. A me fu offerta una fetta della torta nunziale a base di miele e di sesamo. Poi dovete addentare una mela cotogna, tutti simboli di fecondità. A quel punto dovevo recarmi a casa di Paionio, accompagnata dal corteo con le mie amiche, la ninfeutria, zia Demodice. Lì sarebbe avvenuta la cerimonia dello svelamento, avrei finalmente liberato il mio volto. Ma il rito spartano, voluto e stabilito da Paionio, prevedeva un altro epilogo. Mio padre ogni tanto mi gettava un'occhiata stanca. I suoi occhi acquosi si spalancarono di assurda soddisfazione quando Paionio, senza alcun preavviso, si scagliò su di me. Mi afferrò i fianchi, mi caricò violentemente su una spalla, trascinandomi fuori dall'androne, incitato dalle urla animalesche dei suoi amici che presero a seguirci e dalle invocazioni della ninfeutria alla dea Era. Con il finto rapimento si compiva la cerimonia delle nozze. Paione mi portava sulle sue spalle lungo le puzzolenti stradine di Fliunte, seguito dalla ninfeutria e dalle urla dei suoi amici. Ero terrorizzata. Paione sembrava un attore di teatro, acclamato dalla gente che attendeva il nostro passaggio per tirarci addosso noci e fichi secchi. I bambini ci precedevano intrufolandosi in mezzo a noi, tra i cani che ci correvano dietro e si gettavano per terra per raccogliere fichi e noci. Tutto ciò rallentava la fuga di Paionio che imprecava come Cerbero all'entrata dell'Ade. La ninfeutria non faceva che elevare ululi a Era affinché ci mandasse tanti figli maschi. Le stradine di Fliunte erano strettissime e umide. Il cielo era grigio, il crepuscolo stava calando rapidamente, il freddo di Gamellione si univa al gelo della mia paura. Mi sentivo sballottata come un sacco di noci, come una preda appena catturata. Attraversammo la gora piena di gente che si scatenava al nostro passaggio, mentre le grida del corteo crescevano. Paionio quasi sfondò la porta con un calcio, fece passare avanti la ninfeutria, le indicò urlando la stanza accanto all'andron, quella che dava sul peristilio. Anche se ormai non c'era più pubblico, intendeva recitare e interpretare il suo ruolo fino alla fine. Mi tenne sulla spalla fino alla stanza dove attendeva la ninfeutria, che mi afferrò fra le sue braccia, ordinando a Paionio di uscire. Tremavo per il freddo. Nella sala accanto si cominciarono a udire brindisi, urla sguaiate, tintinnii di ciotole, auguri, e la voce di Paionio svettava su tutte. La ninfeutria mi aveva fatta sedere su uno sgabello e con le forbici mi tagliava i capelli. Provai a sollevare la testa, ma con una mano sulla nuca mi piegò il capo, ordinandomi di tacere. Quello era il patto che gli Spartani facevano con la dea Era. Così vidi cadere al suolo i miei bei capelli ondulati, neri come il carbone. Con un rasoio mi pulì tutto il cranio e poi volle che mi specchiassi. Non mi riconoscevo, sembravo un maschio. Un ragazzo con il terrore negli occhi. La donna, vestita d'azzurro e occhi stralunati, mi obbligò a mettermi dei calzari e una tunica da maschio, poi si allontanò da me di 2 passi, approvando la sua opera. Era sarebbe stata proprio contenta. Mi prese per mano, facendomi sdraiare su un pagliericcio umido. Paglie e rametti trapassavano il peplo e mi ferivano, mentre nella stanza accanto il banchetto continuava. I suonatori di Aulos rallentarono il ritmo. La ninfeutria mi ordinò di non muovermi. Lui verrà quando sarà sazio di cibo e di vino. Che la dea Era ti dia la fecondità, Assiotea. E mi lasciò sola, al buio. Non so quanto tempo trascorse. Ero terrorizzata, presi a starnutire, avevo gli occhi pieni di pianto. Il banchetto nella sala accanto proseguiva con meno clamore, anche se ogni tanto delle grida strozzate superavano addirittura il suono dei flauti. Sentii sbattere la porta, la voce malferma di Paionio mi chiedeva dove fossi. Balbettando gli indicai il pagliericcio davanti a lui, sulla sua sinistra. A tentoni mi trovò, puzzava di vino. Mi afferrò ordinandomi di reggermi al suo collo con le braccia. La porta era rimasta socchiusa e lasciava filtrare un fosco barlume di tramonto. Paionio mi depose sul letto nunziale. «C'è il lenzuolo bianco?» La sua voce era impastata. Eravamo al buio. Cercai con una mano. «Credo. Mi pare di sì.» Feci una lunga serie di sternuti. «Non si distingue il colore, ma è pulito, si sente dall'odore.» Deve essere bianco, per Dio. Domattina lo devo esporre sulla porta principale, con la prova della tua virginità. Ecco perché deve essere bianco. Sentì che mi sollevava il peplo sino all'inguine. Me lo strappò di dosso. Mi divaricò le gambe. Tremavo. Gli passò una mano sul cranio. Si distese sopra di me. Il fetore del suo alito era insopportabile. Sentì tra le mie gambe qualcosa di viscido. Mi ritirai di scatto, mi agguantò il collo. Non ci provare mai più. Mi alitò il fetore di Cerbero sulla faccia. Se stai ferma, finiamo subito. Mi lasciò la gola. Intravidi che si portava la mano tra le gambe, come se si stesse toccando. A un certo punto si piegò. Mi urlò di aprire le gambe più che potevo. Sentì il suo fallo flaccido che tentava di entrarmi dentro. Tremavo terrorizzata. Non ci riusciva. Prese a imprecare tutti gli dèi e quel gran cornuto di Dioniso, poi quella gran puttana di Era, dea della fecondità. Puttana d'una dea, come faccio a ingravidare questa qui se non mi aiuti? Come cazzo faccio a scopare una vergine? Era, sei una puttana! Non sapevo come mettere fine a tutto questo. Come trattenere gli starnuti, il vomito mi stava assalendo, la paura, l'Ade. Quello era l'Ade, il mondo degli inferi. Non stava al di là dell'Acheronte, ma al di qua. E tu qui sotto, allarga le cosce, per Dio. Sono questi gli inferi, questi. Per Dio, non va, non va. Mamma, mamma Antino, e portami con te, vieni qui a prendermi, ti supplico. Per Dio, devo fare qualcosa. E sentivo che aveva ripreso a toccarsi, a strofinarsi con una mano. Niente, domani mattina non potrà esporre il lenzuolo sporco di sangue, per Dio. Mamma, ti scongiuro, vieni a prendermi, vieni a liberarmi. Girati, per Dio, girati. Così, ecco, così, a pancia in giù. Fammi sentire, per Dio, sei proprio come un maschietto, i fianchi stretti. Oh, sì, Dioniso, sì che funziona, per Dio, per Dio. Aiutandosi con una mano, prese a schiudermi, a penetrarmi da dietro, da quella posizione, come facevano i cani. Sentivo male, un dolore orribile. Paionio cominciò a mordermi sul collo, a chiamarmi Nireo, e più mi chiamava con quel nome, più si ingrossava dentro di me. Oh, sì, sei stretta proprio come Nireo. E mi lacerò. E mi morse a morte sul collo e dentro di me una colata di sangue caldo mi sporcò tutta. Tu sei Nireo? Nireo! E finalmente la sua furia parve sgonfiarsi. S'accasciò sulla mia schiena. Il regno dei morti tardava a inghiottirmi. Mordevo il lenzuolo, ansimando, uscì dalle mie viscere. Almeno non rantolava più. E dall'andron si sentiva una nenia, l'imeneo, il canto dei suoi amici per le nostre nozze. Lo sentì sollevarsi, separarsi da me. Spostati! Non capivo. Forse gli risposi: come? Dove? Torna sul pagliericcio, eco d'una voce rabbiosa. Provai a girarmi. Fuoco e bava mi colavano dalle gambe. Lui afferrò il lenzuolo, me lo porse. Prima pulisciti con questo. Cercai di alzarmi, caddi in ginocchio. Nella penombra infernale afferrai il panno. Me lo strofinai fra le cosce cercando di strapparmi di dosso lo schifo. Continuai singhiozzando finché lui non me lo strappò di mano. Si alzò. Sulla porta lo vidi mirare e rimirare il panno. Se lo gettò su una spalla, sparì. Mi trascinai mentre sprofondavo nel pagliericcio dell'andron, sentii levarsi al cielo un coro di acclamazioni, grida. Poi ripresero a urlare l'imeneo. Non facevo che tremare. Avevo sete, riprese a tossire. Un po' d'acqua forse avrebbe placato anche la tosse. Mi trascinai verso la porta, barcollando, mi appoggiavo alla parete. Il freddo che avvolgeva il peristilio mi fece gelare. In mezzo alle cosce mi bruciava lo strazio, la testa mi girava. Mi afferrai alle pietre della parete esterna dell'andron, la cucina doveva trovarsi subito dopo. La porta dell'androne era socchiusa, filtrava il chiarore giallognolo delle lucerne, uno stanco suono di aulos, un ritmo lento, implacabile. Stavo per cadere. Mi ressi all'anta della porta. Erano tutti senza chitone, senza i matti o senza nulla addosso. Bicchieri e giare di vino sparpagliati sui letti, sui tavoli, per terra. Venni investita dal tanfo del vino e dall'altro fetore, quello dello schifo che Paglione mi aveva spruzzato nelle viscere. Lui era lì, seduto su una sedia, nudo, e a cavallo di lui, faccia a faccia, un giovane ragazzo dal corpo bianco e liscio. Il ragazzo si sollevava e si abbassava, e solo allora mi fu chiaro quello che stavano facendo. Paglione lo stava penetrando. E mentre questo accadeva, al ritmo lento del flauto, Paionio baciava il ragazzo. Le bocche si mordevano appassionate. Paionio, Paionio! Il mio sposo, baciandogli gli occhi dopo averlo trafitto un'altra volta. Nireo, mio Nireo! Ormai l'inferno non aveva più confini. Non avevo più sete, non provavo più dolore. Attorno a Paionio e Nireo era la stessa scena. Coppie di uomini e giovani giacevano, si baciavano, si penetravano, si leccavano, ansimavano. Caddi per terra, mi trascinai con la forza della disperazione tornando indietro verso la camera da letto. Riuscii a scovare il pagliericcio, le punte aguzze della paglia mi martoriavano la schiena. Cercavo inutilmente di tapparmi gli orecchi con le mani, per non sentire l'ansimare dell'inferno al ritmo dell'aulos. Paionio mi violentò per 2 mesi circa. Man mano che trascorrevano le settimane, la sua furia e la sua insofferenza crescevano. Erano momenti di paura, non riuscivo a tenere a freno il mio terrore. Mi straziavano le labbra con i denti, mordevo il lenzuolo. Lui voleva farlo sempre come la prima volta, come lo fanno i cani. Non vedevo l'ora che mi sporcasse, che finisse e mi lasciasse rifugiare nel mio pagliericcio. Nel mio intimo non avevo mai pregato gli dèi, ma in quel periodo dopo ogni violenza mi rivolgevo ad Era affinché mi aiutasse a rimanere incinta, così almeno per 9 mesi mi avrebbe lasciata in pace. Infine, dagli inizi dell'efabellione, le mestruazioni non mi vennero più. Ogni tanto dovevo vomitare anche a stomaco vuoto. Lo disse a Paionio, diffidente mi chiese se ero proprio certa. Cercai di rassicurarlo, il suo volto si distese e mi offrì di dormire nel letto grande, almeno quando lui era assente. Gli risposi che preferivo il pagliericcio, ormai mi c'ero abituata. Il giorno dopo organizzò un banchetto sontuoso, con tanto di ringraziamento alla dea della fecondità Era per mezzo del sacrificio d'un montone scannato vivo, arrostito sui carboni, subito divorato, annaffiato da orci di vino. Il tutto allietato da 2 suonatori di aulos. Canti, brindisi, grida, gemiti e sospiri degli inferi, ritmati dal suono dei flauti, durarono tutta la sera e tutta la notte. Capitolo 4. Tornerai in questo tempio. Era giunta la primavera, aiutata da Emone, sistemai le poche cose che possedevo in 2 bisacce, le appendemmo al nostro vecchio asino e ci incamminammo. La sera prima Paionio mi aveva elencato tutte le attività da svolgere, ordinandomi di tornare a Fliunti in occasione delle feste. Non era il caso di inimicarsi gli dèi. Nelle bisacce avevo inserito anche un po' di libri da copiare, fogli di papiro, pastiglie d'inchiostro e 2 calami, ma Paionio l'avevo tenuto nascosto. La masseria, una costruzione di pietra bianca e tetto spiovente nero, era situata a mezza giornata di cammino da Fliunti, in un altopiano a metà della montagna che sovrastava la città. La località si chiamava Colle Lupo perché in inverno c'erano sempre la neve e la zona era infestata dai lupi. Dall'aia davanti alla masteria si vedeva la valle di Fliunte circondata da altre montagne. In lontananza si scorgevano anche l'Acropoli, il Tempio di Demetra, la Gorà, il Tempio di Asclepio, il Teatro e il fiume Asopo. Oltre l'aia si distingueva una vigna circondata da poderi coltivati a grano ed alcuni olivi. Tutt'attorno il bosco. Querce, cerri, faggi, noci, alberi di fichi. Il terreno era pietroso. Sebbene fosse il crepuscolo, pregai Emone di portarmi in giro, fra i campi. Colle Lupo Era a terra di pascolo, ma i contadini erano riusciti a strappare quel fazzoletto di terra alle pietre, alle sterpaglie, al bosco. In primavera e in estate i pastori partivano con le greggi dalle loro masserie di buon mattino, accompagnati dai cani, verso l'alto della montagna dove i pascoli erano verdeggianti. Lì lasciavano che le mucche, le pecore e le capre si sparpagliassero liberamente a caccia dell'erba verde. Poi, al calar del sole, scendevano a Colle Lupo nelle rispettive masserie, rimettendo gli animali nelle stalle. Vagavo in mezzo alla natura riempendomi i polmoni di profumi, di quel vento puro che non cessava mai di ispirare, di accarezzarmi l'olfatto. I fiori, le varietà di erbe, gli uccelli, un esercito di grilli che saltavano e si levavano in volo mentre camminavo. Tutti quegli aromi sconosciuti, le farfalle variopinte, i piselli freschi che raccolsi, la presenza rassicurante di Emone al mio fianco. Un po' tutto questo lasciò insinuare una luce ariosa nella mia mente, da mesi minacciata da una nuvolaglia tempestosa. Si udirono sibili altissimi, fischi e ululati. Cercai di disperdere il grosso delle braccia sotto la pentola dei piselli, poi mi alzai e corsi dietro a Emone. Riuscii a tirarmi indietro appena in tempo. Un fiume di pecore e capre, aggirando velocemente il pozzo, si lanciò nell'aria dinanzi alla masseria. Alcune fuggirono verso la vigna, ma un grosso cane, color bianco rossiccio, saltò, le bloccò con ululi e digrignardi i denti, obbligandole a rientrare e a unirsi al branco. Alla fine, quando tutte le capre e le pecore furono entrate nel cortile, apparve lui, un ragazzino con un buffo copricapo grigio che gli scendeva sugli occhi e sulla nuca, magrissimo, con un bastone in mano. Alla nostra vista si arrestò, spaventato, gli occhi lampeggiarono sorpresi. Si tolse il buffo berretto, lasciando libera una zazzera riccia in colore per lo sporco, piegando il capo sul collo. Poteva avere non più di 11 anni. Fu Emona a disperdere la sua apprensione, dicendogli chi eravamo, chiedendogli il suo nome. Si chiamava Unai, era figlio dello schiavo Panopeo che lavorava per conto di Paionio. Teneva i suoi occhi verdi incollati a me. Emona gli spiegò: Unai, Assiotea è la moglie del cittadino Paionio, il proprietario di questa terra. Invitai il ragazzino a cenare con noi. Mentre mangiava, felice per la prima volta nella sua vita che qualcuno si interessasse di lui, prese a raccontare quello che combinava durante il giorno. Intanto affondava le dita nella sua ciotola, arcuando i polpastrelli a forma di cucchiaio e le portava alla bocca inghiottendo con avidità. Una raccontò: sulla montagna c'erano una decina di greggi e ognuno era affidato alla sorveglianza di un pastorello come lui a un cane. Ma non si incontravano quasi mai, stavano ben lontani per evitare di mescolare le pecore. Qualche volta si lanciavano un fischio quando avvistavano dei lupi, degli orsi o dei leoni. Allora si dirigevano verso il centro della vallata, lasciando i cani ai confini. Tutti i cani, compreso il suo titano, portavano un collare chiodato. Era il collo che azzannavano i lupi. Attaccavano quasi sempre in branco e allora anche i cani si difendevano in branco. Titano era il più valoroso, sempre il primo a sferrare l'attacco. Unai e gli altri pastorelli aiutavano i cani con i bastoni e con delle torce accese. Ogni tanto però una capra o una pecora si allontanava dal gregge e allora Titano prendeva a correre, si infilava fra le siepi o fra gli alberi e quasi sempre riusciva a riportare indietro la bestia. Talvolta poi capitava che i lupi l'avevano già scannata e trascinata via. Alla fine della settimana arrivava il padre, Panopeo, contava tutte le bestie e Unai era costretto a raccontargli la verità. E allora erano botte, una furia scatenata che gli lasciava i segni per giorni e giorni. Questo era il destino di tutti i pastorelli. Panopeo spiegò allora che Emone non era il vero padre di Unai. I pastorelli andavano a procurarseli a Fliunte, in una casa del governo dove gli schiavi spazzini portavano i neonati buttati nella scodella di coccio. I bambini rifiuti non costavano niente. Quelli difettosi venivano soffocati immediatamente, mentre gli altri andavano a ingrossare il più grande esercito delle Ellade, quello degli schiavi, e una volta cresciuti si potevano vendere bene. Le bambine invece venivano gettate assieme ai rifiuti. Le poche a cui si lasciava la vita finivano schiave. Se avevano un aspetto piacevole, finivano nei postriboli delle città, soprattutto nei porti. Le altre invece andavano a crepare nelle miniere.